Tanto nella notizia di stamattina, The Specialist, l'unico vero e solo specialist, si è convocato per la si è qualificato per la finale del Mundialito, Coppa del Mondo per club o come volete chiamarla. Il Chelsea ha battuto 3-1 gli irresistibili messicani del Monterrey con gol di Mata, Torres, autorete di Chavez, e solo nel finale il gol della bandiera dei messicani, domenica la finale con il Corinthians. 800 24 00 24, numero verde. Parlo da 4 giorni della Conte Cam. A parte che non è vero, però insomma torno a ieri sera, quando uno stadio intero ha salutato il ritorno del guerriero Antonio Conte, di cui mi parlerà Francesco da provincia di Milano, Franco da Brescia, Antonio da Perugia, Giacinto da Ravenna, Massimo da Mestre, eccetera eccetera eccetera. Tutti convocati. 800 24 00 24, Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Volevo fare una precisazione sulle dichiarazioni che prima ha fatto il critico televisivo. Sì. Antonio Conte non ha giustificato il fatto che fosse adesso giusto dare tutta questa attenzione mediatica nel momento positivo. Antonio Conte ha detto una cosa diversa. Nel momento negativo, per 4 mesi durante Scommessopoli, dove tra l'altro lui non ha parlato e rilasciato nessuna intervista, anzi l'unica intervista che ha fatto a seguito della condanna ha preso 24.000 euro di multa. Beh, lui non ha parlato. Ricordo una discreta conferenza stampa. Addirittura Scommessopoli fosse diventata Contopoli. Sì, però Francesco, però mi perdoni un attimo. Non è solo finire. Lui l'altro sì, lei adesso, finisce, lei poi finisce. Se si parlasse in negativo, sì, si è fatto per 4 mesi, se per un giorno l'hanno fatto in positivo, era questo il senso. Non penso che Conte volesse portare su di sé le attenzioni. Io dico che Conte ha ragione nel dire che è stato esagerato ogni aspetto di questa vicenda. Però insomma, che l'allenatore della Juventus, squadra campione d'Italia, finisca comunque sotto processo per una vicenda di questo tipo, insomma, non poteva certo passare sotto silenzio. Quindi è stata esagerata forse l'attenzione, ma non so neanche se fosse esagerata l'attenzione intorno a Conte, perché comunque era un caso grosso, un caso unico. Ora ha finito la squalifica e torna in pompa magna a fare l'allenatore della Juventus. Dunque non trovo che fosse così eccessiva quell'attenzione mediatica. Franco, provincia di Brescia. Buongiorno Carlo Genta, buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Grazie Franco, buongiorno a lei. Allora, io vorrei, premetto subito che non sono juventino, sono milanista, e poi di questo Conte proprio, guardi, non le dico dove mi sta perché sarebbe assurdo. Sì. Questo fa tutto ciò che vuole e mai nessuno lo condanna. Ha venduto partite a iosa baciando scatole con dentro soldi e lui non sapeva mai niente. Ma chi quando vuol sapere, ma se un giocatore si... chi gliel'ha detto? No, ma ascolti, non siamo tutti stupidi in Italia. No, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Che abbia venduto partita iosa non credo. All'Atalanta era Condoni, a Siena non ne parliamo. Vabbè, a Bari non ne parliamo. Vabbè, ma possiamo allora dire tutto quello che... mai niente. No, ma possiamo dire tutto quello che vogliamo, però insomma bisogna rimanere in un aspetto di legalità. Poi ognuno la pensa come vuole, no? Però ma che io possa uscire e fare tutte queste conferenze offendendo anche tutti è un'arroganza addirittura fuori dall'usuale. Guardi, sarebbe il tempo di dirgli statene zitto che hai rotto i cocomeri. Va bene, Franco da Brescia, però insomma non sono così convinto che Conte sia Al Capone. Semplicemente trovo abbastanza così ridicola, se volete, questi toni elegiaci per il suo ritorno in panchina, per la sua uscita dagli arresti domiciliari sportivi dentro a quel gabbiotto. Tutto qua. Antonio da Perugia, non so come la pensa. No, vabbè, lasciamo perdere l'ultimo intervento che non mi è piaciuto, vabbè, rispetto comunque l'opinione altrui. Si esagera, vabbè, certe volte si esagera un po', no? Sì, vabbè, come si è esagerato su Conte, che se lui non poteva non sapere, Mondoni con lo stessa stregua doveva essere trattato, o no? Tanto la partita interessata era quella, vabbè, a parte questo, acqua passata. Sì. E non sono d'accordo con lei sul fatto che sia stata data un'eccessiva importanza al fatto di Conte. Mi sembra che per 4 mesi ci sia stato non un bombardamento, ma diciamo ogni cosa riferita al calcio scommesse spuntava fuori sempre il nome di Conte. E poi due considerazioni veloci, così non rubo tempo. Sì. E grazie per l'ospitalità innanzitutto. Sì. E allora, la velocità a due misure di Palazzi, che sì, si è dato a fare in 4-4-8 prima di iniziassero i campionati, per me falsandoli, perché dare subito, andare in sesta per Conte, Pepe e Bonucci, di cui gli ultimi due si sono risolti in una bolla di sapone. Poi il fatto anche che mi ha fastidio pagare un servizio pubblico, la RAI, senza fare nome, trovare veramente disquisizioni da parte di un presentatore di nome Variale, che dà lato proprio alla sua fastidiosità in maniera scolorata, perché dà un po' fastidio a me personalmente. Sì. Su questo non saprei cosa rispondere, non saprei a cosa si riferisce su Variale. Quanto alla rapidità della giustizia sportiva, credo fosse atto dovuto e doveroso, come accade sempre in queste situazioni. Sappiamo come giustizia sportiva ordinaria vada a una velocità differente, si trattava di risolvere questi casi, punto e basta. Non mi pare ci sia altro da aggiungere, era una velocità dovuta e doverosa. Giacinto Ravenna, eccomi qua, eccolo là. Dunque, d'accordo, su Stendardo è una cosa lunare, addirittura marziana, addirittura non si può neanche commentare, perché è talmente astruso. Come per quello che riguarda Conte, io ritengo che anche su Marte ne abbiano le sfere piene, che non ne possano più, perché è una persona arrogante. Se fosse stato alla Juventus, alla Sampdoria, o che ne so io, al Perugia, come Avella, tanto casino non si sarebbe fatto. Ma questo è abbastanza evidente. Era l'allenatore però della Juventus campione d'Italia, dunque mi sembra che... Ho capito, ma era appena arrivato, non c'entrava niente. La Juventus non c'entrava niente, però il rumore che è uscito da questa vicenda era dovuto essenzialmente al fatto che era l'allenatore... Altri 30 giocatori allenatori che sono ancora là rinchiusi a Ravenna da tutte le parti e non se ne parla. Ma insomma non se ne parla, anche perché sono là a Ravenna rinchiusi e sono giocatori comunque e sono personaggi di minore importanza. Conte è l'allenatore della Juventus campione d'Italia, è finito coinvolto in questa storia, e dunque trovo abbastanza normale che questa vicenda sia stata seguita con grande attenzione dai media. Trovo un po' spropositato questa celebrazione con tanto di Conte Cam al suo ritorno in panchina. Un po' più di sobrietà si poteva anche adoperare. Anche se non sono mancati aspetti di ironia o di autoironia, come abbiamo sentito prima nel montaggio, perché lo stesso Conte che dice: guarda, c'è mia moglie che mi fa il verso e imita Crozza, insomma è una cosa, è stato simpatico, non c'è dubbio. Massimo Mestre, buongiorno, posso non parlare di calcio minore? Sì, perché dell'ex allenatore dell'Arezzo, sinceramente, da tifoso della Fiorentina e del Siena, del Bari, sia di qualche altra squadra, appunto, e dell'Atalanta, licenziato dopo poco, sì. Quello pelato, se non ricordo male. Questo è scivolato. No, perché all'epoca lo era. Su questa è scivolato nel luogo comune più banale che c'è. Vabbè. Ma io sono andato a vedere Fiorentina Juventus con la parrucca partendo da Mestre a 50 anni. Vabbè. Su questo è scivolato. Tu sei un baschettaro. Io sono quel che sono. Esatto. Non faccio la vita che fai, lo so che vivo ai margini della città, non sono come te. Non vivo come te, io sono un poco di buono. Bravo. Perché sono un ragazzo di strada, ricordi, c'ero. Te la ricordi anche tu, dai. No, allora il Jordan divideva gli arbitri in califi e belle gioie e diceva: se mi mandi in casa le belle gioie e i califi in trasferta, hai già deciso il campionato. Sì. C'è un solo modo per evitarlo: sorteggio integrale. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Lo aspettiamo, presidente. 800240024, Giovanni, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Sono convocato anch'io come il presidente e quindi come presidente, certo. Io di parola per 20 secondi. Di... per 20 secondi, solo una provocazione. Complimenti a Stendardo, ci ha raggiunto l'obiettivo di essere diventato avvocato, sì, per aver mirato anche alla sua vita futura, post calcistica, diciamo. E non tutti potranno vivere dei grandi e lauti compensi che qualcuno oggi prende. E quindi aver pensato a questo, essersi dato una grado culturale, avere delle mire in questo senso è incommiabile. E poi dico che è una magnifica provocazione quello che la sua società le ha fatto, perché in Italia solo se passiamo attraverso provocazioni del genere riusciamo poi a risolvere alcune problematiche. È evidente che è un paradosso, insomma, non si può buttare un giocatore che pensa ad un aspetto della sua vita così importante. Certo. E poi un altro suggerimento a Stendardo, dico: guarda, la prima causa ce l'hai già. Parla la sua società, che è vero, gli paga l'autostipendio, quindi lui è uno stipendio che noi non guadagniamo, però mi è sembrata davvero una vicenda mal gestita, perché non era in programma finale di Coppa del Mondo, non, magari per me è stato chiesto in ritardo, però su via. Conferenza stampa, caso chiuso, multa al giocatore che non giocherà nemmeno domenica contro la Juventus. Dunque mi è sembrata quantomeno una scivolata sul piano dell'eleganza da parte di una società normalmente elegante come l'Atalanta. Gianluigi, provincia di Venezia. Buongiorno Zenta. Buongiorno. Innanzitutto io vi ho scoperto da poco e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire una cosa, io facevo una riflessione, volevo sapere un suo parere per quanto riguarda Conte e la Juventus in generale. Tengo a precisare che io sono... cioè, a me piace il calcio in generale, una grandissima simpatia per il Napoli, anche se sono nato in provincia di Venezia. No, a me mi dà l'impressione che Conte e la Juventus, in tutto questo ambaradan da mesi, ci sia tanto vittimismo, paragonabile se non superiore a quello degli interisti pre-Canciopoli. Non so cosa ne pensa lei. No, non si arriva a quel livello. Non si arriva a quel livello, però un po' di vittimismo c'è stato. Un bel po' di vittimismo c'è stato e c'è ancora, come vediamo e come abbiamo visto ieri sera dalle immagini di uno stadio che aspettava solo l'ingresso del condottiero dopo la squalifica che si ritiene ingiusta. Arrivare a quei livelli di vittimismo mi sembra complicato, a quelli cui faceva riferimento prima. Ciro, Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. La nostra nazione triste e solitaria è in finale. Sì. Quello che ha fatto la società dell'Atalanta è una cosa di una tristezza in sé. Sì. Proprio dà il senso di questa nazione. E fa il paio con le parole di Andrea Agnelli, credo a giugno, luglio, che abbia detto che Moggi è stato il più grande dirigente calcistico d'Italia e lo ha paragonato a una persona defunta, una cosa ignobile, ma da Andrea Agnelli me lo sarei aspettato, paragonandolo a Italo Allodi, insomma una cosa di un livello bassissimo che ci fa capire benissimo che cos'è la società Juventus adesso. E quindi anche la difesa di Conte. Io ho fatto sport in serie minori, in sport minori. Quello che è accaduto a Conte, se fosse accaduto a un qualsiasi allenatore di volley, di basket, di qualsiasi cosa, non avrebbe mai più allenato in vita sua. Una cosa indegna. Ma non lo so, non entrerei in questo tipo di merito. Non avrebbe mai più allenato in vita sua, non è vero, non sta scritto da nessuna parte, non è così, certamente non avrebbe avuto l'attenzione mediatica che c'è stata su questo caso, punto e basta. Su tutto il resto, guardi, glisserei con grande piacere su tutto quanto, su tutto il resto che lei ha, ha detto, perché sì. Invece non glisso affatto su Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera a Istanbul. Ciao Roberto. Ciao, ma questo era un tifoso. E beh, che cosa non era aspettare? Un autorevole personaggio. No, no, perché... no. Perché vuoi rispondergli? No, io devo dire una cosa, al sì. di là delle dei fatti noti, Luciano Moggi come dirigente di calcio, come dire, escludiamo telefonate, partecipazioni, frequentazioni, eccetera, eccetera. Sfrondiamo da tutto questo, come dirigente di calcio è stato uno dei più bravi. Sì. Perché... perché di calcio poi, si capiva, poi, perché sapeva fare gli affari, perché sapeva andare a prendere i giocatori. Perché di calcio ha cominciato dalla gavetta, andando in giro con i treni, grazie allo sconto delle ferrovie, anzi gratis presumo, e insomma ha cominciato dalla gavetta, è uno che ancora quando era dirigente della Juventus ed era il più considerato il più potente d'Italia, comunque andava a vedere i ragazzini nei campi di periferia e a studiare, insomma, adesso questo è ingiusto, è giusto dimenticarlo. Sì, no, hai ragione, questo, poi... hai ragione. Cioè, lasciamo perdere tutto il resto, sì, era uno che, esatto. che di calcio capiva e di ne affari capiva, anche. E comunque tanti dirigenti che ci sono adesso non si muovono dai loro uffici, dalle scrivanie, dalle poltrone in pelle. Sì, ecco. Sì. Questo è corretto e lo condivido. Roberto, io voglio sì. parlare invece con te di quel ciuffo fucsia, Federica Pellegrini che, sì. che torna, i ragazzi che comunque conquistano una medaglia d'argento mondiali di nuoto in vasca corta, che non ci sono mai stati tanto amici. Come l'hai vista, nostra signora Federica? Ma io credo che abbia ancora un potenziale enorme. Sì. Il problema suo è quello di una guida sicura, che di un adesso programma ha, certo, no? E sì, di trovare l'allenatore giusto, perché può anche fare un risultato ancora all'Olimpiade, secondo me. Non credo che tra quattro anni possa vincere, però sicuramente battersi meglio di come ha fatto a Londra, sì. Ieri senza praticamente allenamenti, ho ridotti molto gli allenamenti, è andata fortissimo, insomma. Sì. Quindi ci sono dei margini, il problema è la guida. E questo Lucas potrebbe essere la guida, però ci sono molte cose da risolvere, primo fra tutto il fatto che lui non verrà mai in Italia, quindi lei deve andare all'estero. Sì. E io sul fatto che lei stia tre anni a Narbonne, dopo che ha ritenuto Parigi non una città adatta alla sua permanenza, ecco, nutro dei dubbi su questo. Sì, lì si tratta di fare delle scelte sportive, perché è indubbio che con questa guida, che con questo tipo di allenatore, i risultati lo dimostrano, Federica Pellegrini riesce ancora a spremere il meglio di sé. Esatto, esattamente. Il resto è stato un continuo cambio senza rotta e esatto. senza direzione, che ha portato alle Olimpiadi un atleta che non ne aveva. Infatti... quando tu è come nel calcio, per intenderci, quando cambi troppi allenatori non è mai un bel segnale. Esatto. È questo il problema, insomma. Il resto come l'hai visto? Ma ho visto una squadra determinata, dei ragazzi che hanno voglia di emergere. Mi è piaciuto il tatuaggio di Scozzoli, che si è tatuato i cinque cerchi. Quello in mezzo in alto è cerchiato di nero e in mezzo c'è un orologio che segna le 8:11 p.m. cioè le vende 11 di Londra, che è l'ora del suo fallimento, sì. Per non dimenticare mai, insomma. E quindi oggi tenterà di la sorte sui 100 rana, la sua gara, e noi speriamo che faccia qualcosa di importante, perché il movimento ne ha bisogno, perché abbiamo passato quest'anno, noi che seguiamo il noto, un po' così periferici, sì, a narrare di sconfitte, e quindi speriamo che da ora in poi, col fatto che nel 2013 sono i mondiali di nuoto in vasca lunga a Barcellona, sì, speriamo di raccontare altro, insomma. E quindi c'è un gruppo che sta cercando di uscire dalle sabbie mobili londinesi. Da Mediaset Paolo Bargigia, ciao Paolo. Ciao Carlo, buongiorno a tutti, ciao. Ci hanno detto ieri che la Juventus abbagliata dall'Europa prenderà Drogba. Ma sta seguendo la situazione, sono onesto, non c'è per il momento da scaldarsi troppo. Io ti posso dire qual è il piano che mi risulta della Juve. La Juve è convinta di avere buonissime possibilità a giugno di prendere Llorente, con cui ha un accordo di massima da quest'estate a fine contratto. Quindi su Drogba è molto vigile, perché chiaramente anche nelle indicazioni di Conte bisogna prendere eventualmente un giocatore che può fare la Champions e che ti può fare la differenza, e Drogba sarebbe il giocatore giusto. Drogba ha deciso di venire via adesso dalla Cina. Il problema è legato alla richiesta di ingaggio e alla durata del contratto, perché la Juve dice: se noi sosteniamo un ingaggio dignitoso, ti parlo di 4 milioni, 5 milioni, fino a fine stagione, o al massimo con un bonus per una punizione per un rinnovo, si può fare, ma se andiamo sopra, poi con l'arrivo di Llorente ed eventualmente di un'altra punta, da qui i nomi che girano come quello di Osvaldo, sempre per l'anno prossimo, in caso di cessione di uno tra Mazza e Quagliarella, dopo sfondiamo il tetto ingaggio. Certo. Però la cosa di Drogba da seguire al momento è quella più suggestiva. Oggi vedevo che la Gazzetta dell'amico Carlo Laudisa, sempre molto informato, parlava anche di Alexis Sanchez, che vuole venire via da Barcellona, eccetera, di un'ipotesi di prestito per la Juve. Però vabbè, sono caratteristiche diverse ed è una cosa meno suggestiva. Certo. Stato delle cose, secondo me, per l'attaccante della Juve è questo. Spero di aver chiarito un po'. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Intanto finalmente c'è voluta una congiunzione astrale del 12, ma Giovinco fa un gol decisivo. Sì, io so che tu sei sempre stato uno perplesso su Giovinco, dimmi se sbaglio. No, non sbagli. No, non sempre perplesso, in questa stagione sono perplesso, perché è stato comunque promosso titolarissimo, ma non mi sembra che fin qui sia riuscito ad essere, salvo ieri sera, 12-12-12, decisivo il numero 12. Sì. Carlo, però noi dobbiamo anche fidarci un po' umilmente di Antonio Conte. E se per il gioco di Conte Giovinco è molto più in campo di Mazza e Quagliarella, vuol dire che Giovinco, forse non dal punto di vista del numero dei gol, dal punto di vista del lavoro per la squadra, ne fa parecchio. Secondo me è vero, si vede, è uno che lavora. Se poi tu mi dici non è lucido sotto porta, d'accordo, però la Juve e il calcio di Conte non prevede troppo lo stoccatore, cioè comunque uno deve lavorare. Poi se lavora e fa gol è meglio, però è chiaro che lavorando come un pazzo in quel modo magari perde anche lucidità. Come il primo Robinho del Milan. Ti ho convinto, ma secondo me Robinho è più fighetto. Sì. Cioè, secondo me Giovinco è uno che lavora di più. Beh, fighetto, la prima stagione mica tanto, perché ci aspettavamo la foca, questo invece ha fatto il terzino, ha corso come un matto, poi ha sbagliato un sacco di gol. Sbagliava cose clamorose. Secondo me Giovinco non ha raggiunto quei limiti, no, gol clamorosi che sbagliava Robinho, no? No, questo è indubbio, Io se devo scegliere, però scelgo Giovinco, sarò un po' italianista nel calcio, sì. Ma giusto, è giusto così, Paolo, ma anch'io scelgo Giovinco e lo aspetto con fiducia a prestazioni decisive, dico soltanto questo. Invece cosa regala Moratti all'Inter, hai detto? No, quando? Non so, no. Natale? No, guarda, a Moratti bisogna credere, perché anche ieri sera ha detto che la linea guida sarà l'austerity, no? Quindi non vendendo fumo noi, Carlo, no? Sì. Cerchiamo di essere realisti. È chiaro, molto molto semplice, no? Stramaccione ha fatto due richieste sostanzialmente: il vice Milito ed eventualmente un altro difensore per giocare a tre. Sì. No? Adesso Kivu sta rientrando, però se De Laurentiis darà il via libera, il difensore che arriva a gennaio all'Inter è Campagnaro. Sì. L'Inter ha già un accordo, il problema è che adesso sia Campagnaro che Aronica, che dovrebbe andare al Palermo, sono stati bloccati da De Laurentiis perché aspetta la sentenza su Cannavaro e Grava per l'ipotesi, certo, di illecito, no? Certo. Quindi sono bloccati. Però sulla difesa il segnale è più Campagnaro del brasiliano Douglas del Twente. Davanti anche lì il segnale è che il vice Milito sarà una scelta di austerity. E io non escludo che abbia una certa logica, perché le due società ne hanno parlato, Livaia in prestito al Torino, sì, perché Stramaccioni dicono che vorrebbe vederlo giocare con, cioè, continuità, giustamente, che lo stima, e Riccardo Bianchi, Rolando, no, Bianchi, Rolando, scusami, chissà perché ho detto Riccardo, Rolando Bianchi, che a fine contratto praticamente passa all'Inter, sì, per fare il vice Milito. Sì. Secondo me questa è un'operazione low cost che può avere una sua logica. Certo. Se tu mi chiedi di Paulinho, eccetera, io credo che Paulinho non lo prenderanno, sia che cederanno Sneijder, e tantomeno senza la cessione di Sneijder. Paulinho credo che non abbia una gran voglia di andare via dal Brasile per un'altra stagione, e comunque su di lui ci sono PSG, City e Chelsea, sì, sì, sì, che sì, possono spendere di più. È una scelta diversa, è una scelta diversa che non convince nemmeno caro, me. Caro Carlo, Paulinho piace tantissimo all'allenatore, no? Perché in un centrocampo vicino a Guarin è una cosa che dicono che lo esalti molto. Il problema sono i costi. Beh, chiaro. Ed è la congiuntura. Insomma, chiaro, noi dobbiamo seguire un po' da specialisti un mercato fatto un po' con i bruscolini. Però, sì, sai, qualche idea c'è sempre, no? Certo. Ci accontentiamo, dai. Ci accontentiamo delle idee. Servono ormai solo quelle. Se ti posso dire velocissimamente. Secondo me, invece, su un target un po' più basso, Genoa e Palermo, secondo me, faranno davvero una bella rivoluzione, faranno un bel mercato. E serve abbastanza, perché dicevo l'altro giorno, sono allineate alla congiuntura politica ed economica, sono di una tristezza sconfinata Genoa e Palermo. Sì, guarda, il Genoa praticamente d'accordo per prendere Floro Flores con l'Udinese per le due metà, sì, una di Merkel e l'altra dell'esterno sinistro del Novara, che adesso mi sfugge il nome, che però resterebbero uno al Genoa e l'altro al Novara, l'esterno sinistro di colore del Novara, un'amnesia per Floro Flores. Paolo, ne parliamo un'altra volta, perché sennò mi chiudono il microfono. Benissimo, grazie, benissimo. Tanto siamo solo all'inizio. Un abbraccio, ciao, a Paolo Bargigio, ma anche a Luigi da Napoli, con cui non faccio in tempo a parlare, ma lo farò domani, tanto dalle 2 alle 3 siamo qui, e come dice il Presidente siete tutti convocati ogni giorno per questa trasmissione. Giorgio Luca in redazione, Fabio Cantadone in regia, ciao a tutti. Merry Christmas to all Manchester City fans, and thank you for your support.